attenzione, signor Marino! Hola! Tore! Attenzione, Tore! Che chi è? E chi è? Sono io. Buonasera. Ben alzato, buonasera a lui. Che c'è ben alzato? Si è dato un manzano che ci dice che in terra. Tutto a posto, sì. E niente in ordine. Se lui vuole così, se no te lo giambi. Vabbè. Andiamo bene, andiamo. Sì, più bene così andiamo male. Lo so. Lo so, ma già va bene, là. Ogni tanto fa una succiata di acqua, poi calma, boh. Ma caramba, che gli appaggerà un po' voleva. Siamo manco in piena, l'uve di chiso piena. Quando è pieno qui svuotano tutto. Non svuotano nulla, che se no le cudini. Ho visto il paese, non so dove, avevano i cosi pieni e stavano svuotando. Li stanno svuotando perché sono troppo pieni, pensa che non da qualche paese. Esatto, per fare qualche bacino più grande come riserva, ma boh, aspetta, è esposto, adesso ho staccato l'altro apparecchio, solo fa casino. Avanti, buonasera. Buonasera, ero tre ore zicca di ieri, invece non c'era nessuno, me ne sono andato, però ho lasciato gli apparecchi accesi, almeno per scaldare, che se no si farà zicchetti. La muffa tolgo già, la muffa, buonasera. E allora, ciao Marino, mi senti già tutti quanti, dai. Io li riaccendo ogni sera, tutti quanti, gli apparecchi, così almeno scaldano un po' i condensatori, si caricano. Poi, e cosa vi raccontate di bello? Tutto bello, tutto a posto già, per me è tutto a posto. Ogni tanto qua fa una sussata, poi calma, diciamo che è tempo suo, dai. Avanti, Vito. Buonasera, mio signor Gianni. Ti aspetta, tu sei che te ne ha fatto più di me. Sì, anche di più. Mi stavo leggendo su internet adesso una cosa. Allarme, tutti stanno andando in banca a ritirarsi i soldi per mettersi in casa, perché dice che poi più di tanto non puoi ritirare, se ti servono soldi più di un tanto al giorno, ma poco, 250 euro al giorno mi pare che puoi ritirare. Non basta, voi domani vado faccio la raccolta, io almeno 2.000 euro al giorno devo togliere, vero so. Mi pare che ne capo di un tutto, e faccio prima. Intanto ne metti 10, domani ne hai 5. Ma non te devo preoccuparmi, cioè già ci sono i soldi. Loro dicono così in internet, in poco in poco ti vanno. Già è vero quello. I soldi non è che non ci siano, no. Sta uscendo una nuova legge che in massimo ti posso dare un tanto da spendere al giorno, cioè quei soldi tu non comanda niente, ma stiamo scherzando. Allora, se vengo a casa faccio prima, prendo una casa forte e rimango a casa, intanto non vengo niente in banca, guarda. Ne metti 10 e non ne hai la metà, non c'è nulla da fare. E tieni a casa, cambi di piazza, vi dai e su che andiamo. Avanti, torno. Fate così, vai che ce ne che non fini il pagamento che faccio in banca, se no ne avevi attirati, se ne avevi mandato anche tuo paese. Io già sto lasciando il tanto che si prendono perché c'erano dei pagamenti, boh, tutto l'altro sono pagamenti, no? Non sto lasciando nulla, proprio qualche fesseria sto lasciando e basta, se no ne trovo tutto, non mi interessa niente, avanti. E anche io sto facendo così. Perché intanto per pagare la luce, l'acqua, queste cose qua, il telefono, il condominio, questa roba qui, vabbè che ti sei scenduti usciti di là, poi. Così è, non parliamo di acqua, la banana è ladra, non si deve fare, la banana fa blocco, con un super di certi metri cubi ti aumenta il doppio, e mi sa pagarla. E così via, purtroppo è così, no, io non faccio niente, faccio solo la roba che i pagamenti e basta, boh, calma in tutto, non faccio assai a chi non faccio nulla, ma quella che c'è non sto portando via, avanti torno. Infatti, Però vedi che finisce al prossimo anno. Se non ho contatto al prossimo anno vengo e ne cavo tutto, ne cavo. E sarebbe anche due paesi. Quanto? Anche le cose, la pensione te la accreditano in banca. E allora, è quello che ti accredita la pensione. O in banca alle poste. Tutti l'ha credito così, perché se non puoi andare anche alle poste a ritirartela, poi devi fare la fila, un casino. Esatto, esatto, invece in banca fai quello che ti piace, lavano dei biasi. È un casino, stai diventando già, stai diventando veramente un casotto. Andiamo a letto, andiamo, no. Bisogna cambiare questo governo, ancora non l'hanno compreso. Se ne deve andare via, chi sa di già venuti, che fai un casino. Hai visto anche stamattina, sta bella sorridente, bella allegra, tanto sta girando il mondo con i soldi nostri, alle cose nostre, avanti tu. La cara di Italia, che dici, non girare il capo? Io me la penso così, la fede non girare il capo, prenderà nostri. Ha detto aumento qui, aumento lì, la pensione che si aumenta, 1 euro, 2 euro si aumenta la pensione, avanti già. È l'unica che è andata in America, in tutta Europa, è l'unica che è andata in America, capito? E dopo il Parlamento si scorregge, anche se dall'altro parlante si è sentito amplificato, e dopo si è alzato, devo andare in bagno, devo andare in bagno. Se la sera, la sera mangiando roba guasa la notte, ha mangiato, avanti to. Faccio trobbia già in là, se non può trobbia è da buru. Sai che te l'ha fatto da danzare un popolo? Ma in Parlamento con i microfoni a firmi. vabbè, cose che succedono, allora, magari gli un attacco di gusti, che anche tu me la prossima. Tanto lo prende poco il bestemmie, sappiamo il bestemmie, povera donna, sarà di to. Purtroppo è così, non per voi fa nulla, quando desci, non so che non si firma. Purtroppo è roba naturale, purtroppo è così. È roba naturale, certo che quei microfoni sono troppo sensibili. Mi sarei fatto un fosso, io mi sarei fatto, però già. Ma io penso che riesci da pure la schiccia. Ioia, chissà come ci è rimasto, avanti to. Basta che bimbi, un poco di lanciata, un poco di gazzosa, un poco di Coca-Cola, va bene come te ne sei fatti, ne soffiammi, dici. Vabbè, sono cose che succedono, avanti già. Invece l'anibus lo butta l'axe in leva. Bisogna si prendere un po' di, come si chiama, di, limonata che si mette nel banco, un po' di limonata che stringe un po'. Vabbè, tanto se ne è andata in aereo, e se ne succede in aereo cosa va a dire, succede in aereo, meglio paella. Poi c'è il giuramento di quel presidente, non si già, ma iso grosso, capelli biondi. Da Lorenchi viene al giuramento suo, e la data è passata a Pavilia Edo. E allora, poi c'è il giuramento, e comunque visto, lei è salita su e hanno liberato ancora là, veloce la giornalista. Sicuramente non c'è lo zampino di lui, sicuramente. E noi paghiamo, grazie, sa, il suo viaggio, tanti che ha pagato, l'avevo pagato lui. E non parliamo noi intanto, lui che ha pagato lei. Lei spese non ne ha, spese non ne ha, paghiamo tutti noi. E soprattutto il pagatore. Quando a fare a bombo, le bombe, ho sentito che ha brigato a sasso e altre 6 vie a 30 km orari. Vi siete sottopopolati, tutti e due. C'è il dito veloce tu o c'è la Gianni? Vuol dire che passare tu va primo. Però già. E chi lo sa chi ce l'ha più veloce. Per mancare. E comunque. comunque dai, siamo sotto un governo che ci sta ammazzando, ci sta facendo diventare pubblici da praticamente dalla media borghesia siamo passati a pubblica. Esatto, va per un giornalista di baga tutto. Ticket è qua, ticket di là, boh, tutto il Parlamento. Se non c'è di solito abbiamo versato di come stavamo lavorando. Avanti tu. Eh sì, facciamo così, facciamo. Lei vabbè. Stavo dicendo che via Brigata Sassari e altre 6 vie vanno a 30 km orari. Vanno. Se a Milano in luce, io già non ci vado in quelle vie, però è difficile. Stanno facendo cavolate secondo me, perché a 30 all'ora non sei camminente, sei bloccato il traffico e buco. No, blocchino traffico così. Dai, sta facendo solo casotto, sta facendo questo sindaco. Dai giovane, vediamo cosa cacchio fa, quando lo faranno. Vabbè, io non ho problemi, io la macchina parcheggio, passo il carro e poi vado a farmi gli affari miei, non ha capito? Ah, il fuoco è artificio, deve essere che arrivi della roba. Vabbè. No, io parlo nulla, io parcheggio, avverto il tuo piantone, che lui già lo sa, e faccio sempre così, la lascio e vado a fare tutte le cose mie, capito? Quando ci sono loro dentro subito piantone dentro l'ufficio, ancora non è arrivato niente e io non vedi qualcosa. No, io difficile che ci vada con le vie centrali così, la parcheggio magari viene Umberto e poi vado a piedi, no, non ci vado in queste vie strane, mi faccio la passeggiata. E vabbè, io qualche mattina, sai, io la mattina devo salire per forza la veloce a accompagnare la signora, perché lo sai che vado alla madre, e poi qualche volta salgo sulla Sassari, dalla parte locale, parcheggio, chiamo qualche collega e andiamo a prendere un caffè, oppure devo fare commissione, trovo la macchina, la lascio ferma alla parte locale, capito? E io vado, posso andare al posto, posso andare a piazza d'Italia, vado a fare gli affari miei. Poi scendo, prendo la macchina, anzi entro dentro, saluto Renando. Beh, ancora la nostalgia, senti. già ci vado spesso. Tu pensa che ho 16 anni, 16 anni, dunque, c'è problema. Anche quando facevo i corsi della sicurezza, tutti quanti parcheggiavano piazza Mazzotti o che altra parte. Peggio vado a parcheggiare, parto il carro, sono da fare il corso, sono ritornato dove sono andato. Quindi ho imbagato e ho pagato nulla. Anche voi facevate i corsi di sicurezza, gli antincendio, di queste cose qua? Sì, tutto faceva lui, tutto. Ogni anno, adesso non so, a me mi toccava pure vicino, non l'ho fatto perché intanto stavo andando via, e gli dico, deve andare per forza, e fatti tu due, ho detto, fatelo tu, poi secondo me quando ti fai fare il corso, secondo l'anno ti viene la sonnolenza, quando tu ti alzi già la mattina presto, e devi andare verso le 11, mezzogiorno, se la luna e mezza ti vede la sonnolenza e non capisci nulla, capito? Già qualche volta c'erano i paesi e facevamo una roba veloce e poi ci andava via, capito? Sono sempre le solite cose, no? Sempre le solite cose. Sicurezza e company, sicurezza e roba di antincendio, questa roba qua. Avanti to. Tu me l'ha fatto una volta sola e basta. No, ho arrivato un bel di volte io. Soltanto che un bel di volte mancava un rappresentante e mi toccava a farlo io. Perché nella sicurezza ero anch'io, quindi mi toccava a ripeterlo io. Ari, alla buia, non mancava Edo, chiede, mancava Edo, va vasaio. Quando manca voi lo sono vasaio. E non c'è stato l'ultimo periodo che stavo sempre comprando le scarpe, sempre andare dopo il lavoro, a fine non mi sono andato, mi hanno chiamato, ma lei c'è così, il corso dura la giornata libera, pagata, e va a fare il corso, io non posso uscire, non posso uscire da casa, faccio il servizio dalle 5 alle 11 e mezza e poi vado a fare il corso, non stiamo scherzando. Allora abbiamo fatto in via Coso, in via, erano 3 giorni, in via, che via era qua? Via 4 novembre, via 4 novembre 3 giorni, andavamo alle 8 e mezza, alla 1 ci lasciava libero, mangiavamo un panino sotto, c'era un circo, c'era un bar, poi ci arrivavamo fino alle 4 e mezza alle 5, 3 giorni così. Sono prima andare a fare servizio, ha capito, per non lasciare le zone scoperte, no, sono proprio le tue, prendi altro personale e le metti a fare servizio. Allora, gli ultimi abbiamo fatto 3 volte, 3 giorni in seguito, in via 4 novembre, 3 giorni proprio facevo dalle 8 e mezza, alla 1 mangiavi, fino alle 4 e mezza alle 5. Prima andava in pensione, mi hanno messo in vista, ha detto lei ci vai tu, io già non ci vado, e non ci sono andato. Avanti già. Anche a noi ce la facevano fare fuori orario di lavoro, però lo facevamo prima di entrare la sera, no? La sera si apriva alle 5 e mezza, noi facevamo dalle 3 alle 5 e mezza il corso, poi aprivamo il negozio. Ne ho fatto diversi, ho fatto anche incendio, primo soccorso, HACCP, comportamento col cliente, per sapere come ti devi comportare. Non è che lo cliente se ti domanda una cosa dice là col dito, no, lo accompagni e gli fai vedere dove è, capito? Questo ci hanno insegnato. No? Esatto, ci pagavo a noi, ci pagavo le stagionali, non c'era problema, se noi si supera il culo, le stagionali non pagate, per quello non devo dire nulla, ma non mi ingana, quando ti fai il servizio la mattina, già mi alzavo alle 3, ti fai il tempo, infatti la doccia, fai colazione a casa, alle 3 e mezza, 4 e mezza ci stai uscendo, e poi dopo le 10 e mezza devono fare il corso, tu sei scemo, ma se lo stagionali non mi ha fatto nulla, ti fa la giornata. Mi fa la giornata e io vengo a fare il corso, se no non le faccio, capito? E così hanno fatto l'ultimo periodo. Adesso tu vengo a farlo come prima, capito? Perché nessuno parla, abbiamo i sindacati tutti corrotti, tutti comprati da noi. 3 sindacati ci sono, non se, da 3 non se ne salva uno. Tutti gli altri dalla parte all'azienda anziché all'operaio, capito? Avanti tu. Ragazzi, vi devo mollare, che mangio i bigliami da bottiglia, c'è un lutto. Ci risentiamo alle prossime, ok, ciao, statemi bene, anche gli ascoltoni, ciao a tutti, ci state bene. Ciao attore, ma lì saluta, poi fai entrare il break, dai. Benissimo, ciao attore, ben sentito, a domani se ci sentiamo, dai. Ok, avanti, bene, che buonasera. Buonasera a tutti, da questa parte Antonio. Non sei Antonio, me l'hanno fatto. Avanti già. Ciao Antonio. E io fra poco devo andare, devo portare giù il cane. Poi vai, sono tutto canto a dolori. All'anca, non posso muoverla, guarda. Mi si blocca tipo quando c'è il crampo. Cambiamento del tempo, cambiamento del tempo, anch'io ho avuto il coso alla gamba, poc'anzi, sono uscito fuori, ho sentito un dolore tipo sciare, il dolore lasciato, cani, alla gamba, mamma mia, ho visto le stelle, con il cambio del tempo, avanti, signor Antonio. Una bomba sì, no, che avanti tutti, c'è un segnalone, cappa. Sei contento di questa antenna? Ma per il momento va benissimo, guarda, non mi posso lamentare, per il momento. La giubiazzata, andare, cambi faccia, se non temo, sei una triccia. Già va bene, dai, niente da dire, non la posso criticare. Già va bene. Avanti già, mi sposto un attimino e prendo la bottiglia d'acqua, avanti già. Sì, no, ci sono antenne che vanno bene. Vanno bene, magari il materiale è un po' più fino, ma sono, vanno bene. Come, come sono fatte, diciamo, il materiale è un po' fino, però già rendono, rendono come antenne. Vai. Ecco qua. Ah, ma se mi entreghi per la bermuda. Entreghi la bocalisse. Scappa. Anche se mi tranda, però quello là è uguale, la stessa roba. Ce l'abbiamo io, ce l'abbiamo Marco, Marco, cioè Marco Condor, io ce l'ha, adesso ce l'ha anche, ma, che ha tutto intreppato, mi so. Bene, ce l'ha, Pompugno. Ce l'ha Pompugno, ce l'hai tu, ci quattro ce l'abbiamo. E anche tu la sai fare un 9-18, 9-20, eh? Quanto, già, già va bene. Io quando ti arrivo, mai. Come, già, non ho capito. Io quando ti arrivo di segnale lì. Paolo, scusa, prova, che mi ho tolto così le orecchie. Prova già, scusa. Non c'è problema, non ti preoccupare, controlla. Tu sei sempre 9:20 già, sempre 9:20, sì. Va bene, ti andrà bene. E poi c'è un euro di sanzionare la mia antenna, si dà al canale 40 e 1:1. Poi sale appena appena quando vai in canali alti, ma 1:3, 1:4 massimo. Quanto è di segnale da te, Marino? Adesso sei 9:15 o... Quanto? No, ho detto, quanto è di segnale lui, Gianni? Su DB del 9:30. Già, va bene. Come 9:15, Marino? 9:20 sta arrivando, Gianni, sempre 9:20. Ah. E tu sei 9 Gianni, più o meno, 9:18, 9:20. Stazionale sta crescendo, ho anche l'umidità, Ma non fa niente, però perché la bisogna sta bene. L'umidità le fa salire un pochino, capito? Anche me un po' me la salite, no? L'umidità crescendo. Avanti già. Ma qui già c'è il vento, gli asciuga tutto, pazzo di vento, mamma mia. Io lo stavo temendo quel vento. A rappi che veniva qua, si sono proprio il fischio. La mia fischiava, la Mantova fischiava, sembrava un coso, non faceva dormire nessuno, c'era mia figlia, un cacchio dormiva, poi lo sentivo anch'io dentro casa, la Mantova fischiava parecchio. Ma qua il vento fischiava anche perché gli alberi e coso, si bigiava gli alberi, era un vento allucinante, chissà quanto era di velocità. Quando c'è il vento, c'è il vento, il vento di là. Avanti anche tu. E magari è col bambino, là. Vabbè, dai, io poi vi saluto, dai, che vado a portare giù il cane, che è già tardi, questo mi sta chiamando, a 3 ore. Io sono entrato per salutarvi perché vi ho sentito, se no sarei stato già giù. Non mi dà di cui, a paracchi, umidità, ma ti tocca scendere, dai. Poverino, devo andare a fare il bisogno. Tranquillo già, ci sentiamo domani se coincide. Ciao ciao, avanti a tutti. Ciao ciao Marino, ci sentiamo, è stato un piacere. Dai. Ciao Antonio, se mi ascolti. Buonasera. Ciao già, ciao. Ciao ciao Marino, ce la risentiamo. Gianni, stai andando anche tu? Sì, no, sto andando via io, Marino no. Sto andando via io per portare giù il cane a tu. Ah, ho capito. Sta portando il cane Gianni o Antonio? Ma ti volevo dire, ma l'hai isolata tutta l'antenna, sì. Ah, non ho capito, scusa. E l'antenna l'hai isolata tutta. Tutta isolata, con il nastro vulcanizzante e poi nastro isolante. Anche la bobina vulcanizzata. Hai sentito? Sì, stavo a girare la pasta un attimino, adesso fa, perché l'ho già appena bolla. Però se tu hai notato quell'antenna, per come è fatta, gli fili non escono, sono uno dentro l'altro, capito? È difficilissimo che ne salti fuori uno stilo. Potrebbe scendere giù, ma toglierlo è un pochettino difficile, solo quello di su, l'ultimo, quello centrale, è buono. lui quello delle stazionarie, diciamo, no? Quello dei registri per le stazionarie, gli altri non facilissimo. Una volta che le tiri, c'è dei buchi, metti la vite e sono a posto. Tutto che devi fare bene l'ultimo, diciamo, là. Diciamo il primo, perché devi tirare l'antenna, capito? Tutto l'altro è a posto. Capo, perché il primo non ho... cioè no, quello di su, cioè gli altri, hai notato che non escono, manca palla. Cioè, c'hai così, c'hai i segni, è buono, devi buoni così, lo stub sopra. Comunque è buona. Parecchi e l'antenna funziona bene. Ma oggi va bene, stazionale quanto ne hai tu? Dipende, per esempio qua ne ho un pochettino di più. Sarà 1,2. Più giù ce ne ho 1,1, ne ho, capito? E io dicevo anche l'umilitare, l'umilitare, l'altro giorno c'era l'umba era zero, neanche si stava muovendo il lago, in tutti i canali, capito? Neanche si muoveva. Oggi dove c'è un pochino, 1,1, 1,2, ma niente, è umida, per quello, eh? Ma non le fa niente, non le fa nulla. Cazzo, però l'antenna fa, come? Sì, appunto. Vabbè, il lavoro è tutto a posto? Domani si fa. Oggi era una visita col bambino, il coso. Ehi, piano piano, dai. La vita continua, purtroppo lavoro così, non c'è nulla da fare. Piano piano. Ma ti ho preso la macchina? Ti ho preso? Sì, ho preso la macchina. Se mi avevi tu l'altra volta in via Pasqua portare il bambino all'asilo? Ma appunto Bertolina. Cosa c'avevo? Un appunto c'avevo? No, ho messo sbagliando. Sì, un appunto Bertolina c'ho. Allora addirittura, io stavo salendo verso Sassa, hai trovato parcheggiato, che ha preso il bambino. A tu mi sembra non mi sei mai già Antonio. Io ero. Adesso ho deciso, appena che ho soldi, me la voglio, c'ha 55.000 km, c'ha adesso, con l'opera ne aveva 52.000, ho deciso di restaurarmela tutta e metterla a posto. Piano piano, fai, piano piano, c'è qualcosa, fai una cosa, poi ne fa un'altra, e tra sistemi. Piano piano ti assistenti, capito? Un domani che stai bene e te la cambi, capito? Devi fare cose piano piano. Oh, caro armati quella macchina, vedi, ho controllato la pasta. Sono caro armati come motore. Voi motore fai, già lo sai meglio di me. È ultimo, che l'ho avuto anch'io la macchina. L'ho avuto anch'io il motore fare, e già va bene. Anda a me, va benissimo. E bambino? Sta giocando? No, va bene, drumito. Ehi, anche mio nipote lì. Era a scuola a calcio, sta viziatore da come moglie. Ci ha fatto la doccia, si sta addormentando, no? Adesso mangi e poi ti addormenti. Perché si stancano. Stamattina asilo, la sera scuola a calcio e sono stanchi anche loro. È anche giusto. Già va bene, dai, piano piano. E tu adesso la pampa che motore ha quella tua? Io ho preso quasi nuova, diciamo, ho preso chilometri zero, ho preso, capito? La mia è 1,2. E motore fa quello? Esatto, 1,2, già va bene. Cioè l'ultima fregatura che ho preso dalla Fiat, dopo un paio di mesi ho visto c'era qualcosa vicino ai vetri, la vernice trasparente. Adesso c'ho anche il cofano che sta uscendo dal trasparente. Sono andato, un cacchio ci hanno riparato. Tanto non c'hanno carrozziere, la devo lasciare a Tempio. Vabbè, io la macchina la lascio a Tempio, ma voi mi dovete dare la macchina sostitutiva. Invece nulla, non mi ha dato neanche la macchina. Ho fatto un casino, mi hanno chiamato anche da sopra, da Torino. Ho messo più metro avvocato e mi hanno detto, metro avvocato, anche 10 avvocati, e non è fottuta, non preso. Ho che parlare di garanzia sulla beneficiatura, zero, non devo pagare in tasca. Tutti sono così, Marino, tutti così sono. macchina sono più quelle di una volta, infatti io è proprio quello il problema, perché la macchina a casa è impeccabile, se no la bruciatura mi uscita, capito? Voglio portarla da uno bravo, cioè più in là, io, ma voglio con la pronuncia originale, ma la voglio far pronunciare tutta, cioè non ne voglio già la macchina, ma mi va bene quella. E se conoscevo anche il bruciatore bravo a quei prezzi, si fa un preventivo e fa vederci tutta. Ce n'è uno qua in zona che fa prezzi buoni, qua in zona in campagna. Ah, davvero? Eh sì, io devo portare lì a fare un preventivo. Certo, sono passato da un giorno che mi faccio le passeggiate a piedi, e gli ho già detto, con calma non vicino mi fa un preventivo. Capo. Adesso vediamo quando mi arrivano i soldi, perché vorrei restaurarmi anche un po' la moto, capito? La vorrei ritornare ai suoi colori originali, come era la Fiat, cioè, come la Piaggio l'ha costruita. Voglio farmi anche la moto, capito, nuova. E questo fa tutto, basta andare un giorno, ci diamo appuntamento, dico dove venire, così, e chiedi un preventivo, non ci paghi un tanto, e poi valuti, tu aspetti adesso, conviene aspettare, non avevo i soldi, mi chiami, dico appuntamento e andiamo assieme, è vicino a me intanto, vicino a campagna mia, ti va a fare un preventivo e così via, no? Che non sia un ciappuglione. No, ha portato la macchina a mio fratello, che mio fratello, il più grande, il Vigile del Fuoco, che è molto pignolo. Hanno fatto carrozzeria e verniciatura, e ho visto che già va bene. Lo conosco, io sono mutatore. Ma chi? A mio fratello? Che ce lo conosco. C'è il baffi, c'è il baffi dei giri, dai. È in pensione, 20 anni è in pensione, mi guardi. Cappa. Allora, scusami, uno deve essere pignolo, cioè la veneciatura uno la vuole fatta bene, perché cioè, se c'è pagamento, cazzo di cose andano fatti bene. Va bene, dai, dici che è pronto la pasta, poi mangia anche il bambino. Ciao Mari, grazie della chiacchierata, mi ha fatto piacere, ok? Ciao ciao, alla prossima. Ciao, tu anche a me mi fa piacere, dai, ci sentiamo. Ok, ciao ciao, a domani se coincide, ciao. Ciao ciao ciao.